Piazza 24, i gialli della storia. Quando finalmente Paolo Villaggio osò dire questa battuta rivoluzionaria, assolutamente rivoluzionaria. Scusi? Posso dire una parola io? Tutte le volte che me la dico questa battuta, ancora oggi rido. Perché mi sembra, rido anche adesso, perché mi sembra che sia assolutamente geniale. Dica, dica. Allora? Per me, la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca! Una battuta, quella sulla corazzata Potemkin, così straordinaria e travolgente da essere entrata nell'immaginario di tutta una generazione. E dire che all'inizio la critica tratta i film, i libri di Paolo Villaggio con superficialità e indifferenza, nonostante gli venga riconosciuto da subito una grande forza espressiva. La sua carriera comincia nel 1967, quando Maurizio Costanzo lo scopre in un teatrino di Genova e gli offre un contratto in un cabaret a Roma. Da allora una carriera straordinaria, durata più di 40 anni, costruita sullo straordinario talento di un attore molto particolare e soprattutto sul successo di una maschera popolarissima, buffa e tragica nello stesso tempo. 10 film, 7 libri venduti in 2,5 milioni di copie, tradotti in varie lingue, fan club sparsi in tutto il mondo. Dopo Totò, la comicità italiana non ha conosciuto nessun altro come il ragionier Fantozzi. Oggi a Mix24 la storia di Paolo Villaggio, le sue esperienze professionali e umane, cominciando dai ricordi e dall'affettuosa riflessione che il ragionier Ugo Fantozzi ha provocato in Gabriele Salvatores e Alda Merini. Un impiegato è uno che non ha storia, è uno che non c'è, è la solitudine totale, è il grigio. Ecco, essere riuscito a far diventare eroe un impiegato, non c'è riuscito poi più nessun altro. Questo libro è dedicato a Paolo Villaggio e al suo delizioso ragioniere Fantozzi. Il suo libro è l'unico esemplare esistente in manicomio. Lo leggemmo per anni e anni e lo imparammo a memoria e qualche malato riuscì a sopravvivere. Io li leggevo sotto le lenzuola, accendendo, ecco il rilevo in un modo. Allora tutta la camerata si svegliava a sentirmi ridere e c'era una sommossa tremenda, si rivoltavano tutti, no? E allora gridavano, è stata la Merini! Tutti i ricoverati si alzavano e ridevano e saltavano. Permesso. La figura di Fantozzi è la figura dell'italiano medio, intelligente, che considera le avarie del suo paese ma non ha il coraggio di parlare. Fantozzi è un personaggio tragico che vorrebbe morire, ma si rifiuta di morire per mano di un violento, vorrebbe morire da eroe e finisce per morire in manicomio con me. La leggenda di Fantozzi è che Fantozzi muore in manicomio con Alda Merini. Ma come nasce la carriera di Villaggio? Quanto c'è in Fantozzi delle stesse origini di Villaggio? Quanto c'è insomma di Genova, dove Villaggio ha passato gli anni dell'infanzia e della giovinezza? Di quella città di mare e di marinai, di arrivi, di partenze, di ironie e di solitudini. Lo ascoltiamo dalle parole di Paolo Fresco, ex presidente della Fiat, suo compagno di scuola, da Maurizio Costanzo. Lui era il leader della classe insieme col fratello gemello. È un fratello gemello che dice di essere per vezzo più giovane di me, non so perché. Piero era uno studioso, piuttosto accanito nel prepararsi, eccetera. E Paolo invece era un far niente. Se riuscissi a spararlo io sarei felice di farlo vedere. Eccolo! Eccolo! Eccolo! Una volta credo che nei compiti in classe di latino Piero arrivava con due penne, una verde e una blu, e scriveva due compiti, uno lo preparava per il fratello, se non aveva una grafia simile, gemelli, e l'altro per se stesso, e metteva alcuni errori in quelli del fratello per farlo più credibile. Lui da ragazzino era l'unico che aveva un rapporto diretto con mio padre, che è stato un uomo di un'intelligenza abbastanza clamorosa. E mio padre, quando io avevo 7-8 anni, gli aveva confessato: Piero, ti devo dire una cosa, però non la dire in giro. Ho la sensazione che il tuo gemello sia, insomma, non dico un deficiente. Poi Paolo ha continuato a vederlo sempre, perché poi lui andò a Roma a lavorare a Liri. Io ho fatto veramente l'impiegato. E dato che le mie esperienze erano solo limitate a una mega società nella quale io per anni, le dico verità, ho sofferto, ho sputato sangue, è drammatico, guardi, per la vita dell'impiegato. Lui diceva che lavorava lì, in realtà bigiava come si bigia a scuola, lui non ci andava. È il mio solito incubo ricorrente, perché proprio qui, in questo edificio, c'era tanti anni fa la mega ditta nella quale ero schiavo. Io dovevo portare a Genova un mio spettacolo che aveva per nome Oggi come oggi. Arrivando in questo teatrino, Squarzina mi dice: se non hai niente da fare stasera, guardati uno spettacolino che c'è qui e guarda un impiegato, che mi pare molto strano. E io scopro una forza ironica, dirompente. Siccome mi dovevo occupare da ottobre di un cabaret a Roma che si chiamava 7x8, gli dico: ma verrebbe? Ed era veramente incredibile. Il 7x8 aveva 70 posti, si apriva il botteghino, il telefono, insomma, alle 5 del pomeriggio, alle 5 e un quarto era esaurito. Io ci ho visto chiunque, sordi, fino a che arrivò un'alta rappresentanza della Rai Televisione, Giovanni Salvi ed altri, e io lavoravo come autore in radio e televisione, e alla fine, il giorno dopo, mi dicono: ma a noi ci piacerebbe Villaggio portarlo a Milano per fare la domenica pomeriggio. La cassa di risonanza della televisione, nessuno si aspettava. Mi ha chiamato il commenda vecchio, Angelo Rizzoli, mi ha detto: Villaggio, dice, perché di quei racconti che fa lei nella televisione e nell'Europeo non ci facciamo un libro? Beh, facciamoci il libro, era già pronto, è uscito il libro. 1,5 milioni di copie. Il primo libro di Fantozzi dunque esce nel 71 e vende 1,5 milioni di copie. Il primo film, diretto da Luciano Salce, 4 anni più tardi, rimarrà in prima visione per 8 mesi. Fantozzi è un successo inarrestabile. Una macchina per fare soldi che spinge Villaggio a girare anche più di un film all'anno e a moltiplicare i suoi impegni televisivi. Ma Villaggio è anche capace di scherzi clamorosi, di fughe inattese, di appuntamenti non rispettati. Lo raccontano Renzo Arbore, Diego Abbadantuono e ancora Paolo Fresco. Una volta facevo uno sketch, io e Paolo. Lui venne assolutamente impreparato, doveva fare un programma con me. Villaggio, sfaticatissimo, non aveva preparato niente e non voleva venire per la cosa di... Io dissi: Paolo, però fammi una cortesia, cioè, sono 2 o 3 volte che ti chiedo di venire e tu dici sì, arrivo, e siamo sul set inoperosi ad aspettare Paolo Villaggio, che invece non viene. Con un boato oppure con un rombo, perché non ti fai vivo Cristoforo Colombo? Quando arrivò io avevo l'ansia di levarmi il pensiero. Cristoforo Colombo! Sei solo io, faccio la voce da fantasma. Come? Faccio la voce da fantasma. Faccia un po'. Faccio la voce da fantasma, è chiaro? Sì, faccia un po' quello che vuole. Ecco. Lei è l'anima, no? Dunque, innanzitutto premetto, questa graziosa, brillante idea è stata sua. Allora disse, che tempo fa? Disse, guarda, adesso buttiamoci, registriamo, mettiamo, eccetera. Lei vede un uomo, sì? Cristoforo Colombo, un timone ed una vela crociata latina. E delle nubi tutti intorno a sé. E soprattutto queste nubi, altra ammirabile idea di questo geniale presentatore. E poi io ti do dei verbi e tu devi sbagliare il passato remoto. Quando io delle tre caravelle, noi delle tre caravelle scossimo. E sbarcaste. Sbarcutimo. Perché? Sbarcate. Il primo film che ho fatto con Paolo, che era Fantozzi, io facevo un panettiere. Vuole i sfilatini o ci do tutti il filone? So 3 chili e lascio, ce l'ho ficco dentro il sacchetto. Solo che io l'ho visto la mattina, poi mi ha mollato lì, non c'era lui nella prima scena, quella del panettiere appunto, non c'era mai, non l'ho mai visto. E uno mi ha detto, t'aspetta Paolo, t'aspetti in un posto, in un bascio, come si chiamano i basci, quelli sui 3 gradini per scendere. Io scendo, in pausa, vado a trovarlo da solo, c'era solo lui, con un tavolo pieno di cozze, vongole, robe, pesci crudi, cose che non avrei mangiato mai in quel posto. E lui era sottoterra col vino e io e lui siamo stati tutto il pomeriggio lì, cioè non ha lavorato mai lui quel giorno lì. È stato un periodo che mi faceva di bedoni terribili, mi invitavi a Cortina, poi non venivi, ti ricordi? La mattina della partenza di a che ora ci vediamo a Cortina? Dicevo, guarda, Paolo qui non c'è, mi risponde Maura, la moglie. Dico, ma senti, non dobbiamo a Cortina, ma tu credi ancora a Paolo dopo tanti anni che lo conosci? Lui era sparito. Il comportamento comico è un comportamento infantile, cioè tutti i comici sono bambini, immaturi. La Laurel è un bambino, piange tutte le volte che... Jerry Lewis era un bambino scemo, Totò non ha mai toccato una donna veramente, sordi lo stesso. Il comportamento infantile va a... portiere. Direi a dissotterrare a livello proprio improvviso, inaspettato, il periodo più felice della vita, l'infanzia. Il che provoca una grande emozione di felicità e quindi la risata. Tutti i grandi comici da sempre si muovono e si comportano in maniera immatura come bambini. I grandi comici come bambini, dunque, soli forse davvero capaci di parlare al bambino che è in tutti noi. Si succedono le generazioni, ma Fantozzi non sembra invecchiare. I bambini di oggi ridono alle stesse disavventure esattamente come quelli di ieri. Ma se quel ragioniere goffo e sfortunato gli ha regalato l'immortalità, Villaggio inizia a misurarsi anche sul piano artistico con il prezzo di un simile successo. Fantozzi, insomma, rischia di oscurare il vero Paolo Villaggio, o perlomeno rischia di condizionarne le sue scelte di attore. Insomma, Paolo Villaggio è un grande attore o solo un grande autore? Ascoltiamo Gabriele Salvatore e la sceneggiatrice Laura Toscano e Pupi Avati. Questa invenzione è talmente forte, talmente grossa, che qui non è questione di voler far fiorire o meno un talento, è talmente importante che in qualche modo ti contiene. Il suo talento è in dubbio e il fatto che lui lo abbia un po' dilapidato è altrettanto vero. Aspetti, è pericolosissimo. Mi dia la mano. Grazie. Si fidi ciecamente. Abbia fiducia. Io credo che i film che abbiamo fatto insieme siano stati dei prodotti assai inferiori al nostro talento. Nonostante questo, mi sembra che Villaggio abbia provato a fare cose molto diverse, pur avendo dietro questo figlio importante, questo Fantozzi, che si sovrapponeva a volte proprio alla sua stessa immagine. A livello interpretativo, credo che Paolo Villaggio, con enorme successo, con enorme intuizione, si sia sempre celato dietro un personaggio che non ha nulla a che fare con Paolo Villaggio. E a Capalo Villaggio si è mancata in tutta la sua carriera la possibilità di interpretare un personaggio in cui dire la sua verità. Ad oltre 80 anni Paolo Villaggio, almeno sul piano professionale, non ha nulla da rimpiangere. La sua carriera non ha conosciuto insuccessi né battute d'arresto. Tornato in palcoscenico, ha potuto cimentarsi con ruoli diversissimi da Fantozzi, come ad esempio l'avaro di Molière per la regia di Strela. Sullo schermo è stato diretto da maestri come Fellini e Olmi, ma anche le nuove generazioni di registi lo hanno valorizzato con fantasia e rispetto, costruendo personaggi di grande intensità. Ma c'è anche un Villaggio più intimo e vero, il padre che ha vissuto il dramma della tossicodipendenza del figlio e che ha avuto il coraggio di rendere pubblica la sua storia perché diventasse un'occasione per capire e sperare. Un Villaggio che racconta il suo struggimento per gli amici perduti e per tante straordinarie serate che non torneranno più. Beh, dico, mi sarebbe piaciuto molto che lei avesse potuto intervistare nell'ordine Gassman, Tognazzi, Gian Maria Volontè, Gino De Dominicis, che era forse morto poverino, Carmelo Bene, Luciano Salce. Beh, Tognazzi avrebbe detto la verità, molto, molto imbarazzato, avrebbe detto poco affidabile, mi ha fatto andare una volta in Egitto da solo e ho detto guarda, non ti raggiungo al Cairo, basta. Lui mi ha tolto il saluto, si è incazzato. Con Gassman no, non lo facevo perché Gassman era un violento, Gassman era capace anche... No, veramente. No, oh, dottore! Ma lascia andare questi titoli, queste piaggerie fra colleghi, chiamami maestro. Lui avrebbe detto che ero un attore mediocre, come in effetti è, un attore come intendeva lui, però capiva che io avevo, e l'avrebbe detto, che avevo delle qualità mentali, una coscienza ipertrofica forse superiore alla sua. Fabrizio, niente, Fabrizio, eravamo cresciuti insieme. Potevamo stare anche un anno intero, è capitato, senza vederci, senza dire allora com'è andata, come la pensi, perché era chiaro che la si pensava, avevamo lo stesso uguale punto di vista. È molto difficile sostituire una serata con Fabrizio o con Gassman o una serata con Fellini o una serata con Marco Ferrer. Era gente unica, credimi. Senta, lei è ossessionato dalla morte? No, assolutamente. Niente, no. Ho preventivato anche la morte. Sì. Non è venuta quando l'ha preventivata? Ma no, è un modo per esorcizzare la paura della morte. Ma perché lei ha paura? Di che cosa ha paura? Del vuoto, o del dolore? No, dolore zero. Dunque, innanzitutto mi dispiace moltissimo abbandonare un'avventura straordinaria come la vita. La vita è comunque, in ogni caso, comunque vadano le cose, un'avventura straordinaria e meravigliosa. Quindi vale la pena. Poi sempre mi dispiace molto lasciare le persone alle quali voglio molto bene e quindi ho paura di lasciare un po' sguarnita dalla mia presenza, non è presunzione. Quindi lei non pensa come Fellini, che diceva che restano le cose fatte, non bisogna aver paura perché ci sono le cose fatte. La penso esattamente, anzi penso che questa è una cosa che mi sono inventato io. Ah sì, gliel'ha attribuita a Fellini per fargli piacere. A Fellini. Io vedevo, nei 5 anni che ho passato con Fellini, vedevo che lui era piuttosto allegro. E perché? Perché tutto considerato sapeva che poteva sopravvivere alla sua fine. Esatto. L'uomo ha paura di essere dimenticato. Invece lui Non aveva paura. La stessa paura non aveva Gassman, anche se era depresso. A proposito di Gassman, secondo lei, Gassman diceva che lei era un cane come attore, sostanzialmente. Guardi, Gassman lo diceva sempre scherzando per il gusto di provocarmi. Lui è stato in certi momenti anche direi invidioso di una qualità che lui non aveva. Lui è stato la comicità. Senta, torniamo un momento allo scrittore. Il poeta russo Evtushenko, sì, in una conferenza l'ha incluso tra i migliori scrittori italiani. È solo perché non sapeva l'italiano? No, non lei scherza adesso, ovviamente. È una convention alla Fondazione Cini, scrittori italiani in cirillico, sono stato invitato, quindi non lo sapevo, ma ero stato tradotto molto in Unione Sovietica. Ah. C'era Moravia, sotto le sopracciglia la Moravia, c'era là. C'erano tutti quelli della casta scrittori. E invece Evtushenko ha scelto lei? No, non ha scelto. Evtushenko in quel momento ha preso la... Evtushenko, adesso, per chi non lo sapesse, è un grandissimo, certo, Evtushenko. E dice, poeta, l'unico ha detto, molto interessante per noi russi è il vostro... E qui aveva un fogliolino con scritto il mio nome, ha detto... Vigliacco, per l'ha detto male. Io ho capito, ho avuto un sussulto. E mi ricordo che Moravia non sapeva che io ci fossi, si è voltato con le sue sopracciglia, non incazzato, un po' esterefatto, e io istintivamente volevo dire... Mi scusi, maestro, questo stronzo qui di Evtushenko. Davvero lei è così pigro, così tanto pigro? Ma sì, mi dispiace, quello è il vero grande difetto della mia vita. La pigrizia. La pigrizia, è spaventoso, sa? Bisogna stare molto attenti, attenzione se c'è qualche pigro in ascolto, sicuri in qualche modo. Ed è il suo vizio peggiore, la pigrizia. No, anche la vigliaccheria. Senta, le faccio un'ultima domanda. Lei ha detto, lo leggo, la vera impotenza non è quella che si cura col Viagra, ma è la perdita del batticuore. Ecco, lei, il cuore le batte ancora o no? No. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.